Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari ascoltatori, chi è in macchina che sta rientrando, magari chi va, ma sono molti quelli che stanno arrivando dalla montagna e molti quelli che stanno andando. E noi parleremo proprio di un argomento che li riguarda, li tocca, ma tocca anche tutti gli altri che domani andranno, magari nei prossime settimane andranno a sciare oppure andranno a passare una settimana in montagna, perché parleremo della cucina di montagna, anche perché esiste una vera e propria cucina di montagna, soprattutto in alcune aree dove ci sono delle comunità lingue minori, chiamiamolo così, sono chiamate le famose lingue tagliate, di minoranze linguistiche. Ebbene, sono delle cucine davvero straordinarie perché hanno conservato un patrimonio e stanno conservando un patrimonio culturale e un patrimonio anche dal punto di vista della cucina, dei prodotti e della biodiversità. Ebbene, allora cominciamo, diciamo, questo giro, questo tour della cucina di montagna, cominciamo dalla Valsesia, che è una delle aree importanti, anche perché in questo territorio ci sono stati convegni, ci saranno convegni proprio sulla cucina delle Alpi. Allora chiediamo a Johnny Ragozzi, presidente del gruppo Valser Carcofaro, provincia di Vercelli. Buongiorno Johnny. Buongiorno. Quindi siamo in Valsesia. Allora, esiste una cucina Valser, una cucina di montagna? Beh, sì, esiste ed è naturalmente molto ampia, nel senso che ci sono molti piatti particolari con molteplici variazioni. Ecco, Prego, volevo chiederle appunto questo, cioè piatti che sicuramente tradizionali e che cercano di recuperare anche dei prodotti magari che stanno scomparendo. Diciamo che comunque la cucina si evolve, naturalmente una volta si usavano determinati prodotti per fare questi piatti, poi diciamo con l'era moderna si sono un po', diciamo così, migliorati, cambiati, variati, perché una volta comunque la cucina era povera, per cui usavano i prodotti che non vendevano, quindi tipo ad esempio il siero del latte oppure quello che rimaneva della lavorazione del burro, per impastare le cose che comunque contenevano determinati prodotti tipo proteine, così che come si può dire, aiutavano nel lavoro quotidiano perché erano molto caloriche. E però al giorno d'oggi diciamo si sono un po' cambiate le cose. Senta Johnny, ci dà qualche esempio di qualche piatto? Sì, allora, una cosa diciamo particolare che io ricordo è l'uberlecche, è un piatto tipico di Alagna ed è un bollito però particolare, in quanto la carne veniva messa via in autunno sotto sale e la carne poteva essere svariata, nel senso mucca, capra, pecora, quello che comunque, maiale anche, quello che comunque avevano in casa. Una volta addirittura si metteva via la marmotta, quindi sotto sale, questa carne qua, una volta che diciamo era stagionata, durante il periodo invernale si facevano dei bolliti, bollito quindi... bollito di marmotta, insomma. Bollito di marmotta, sì, bollito di marmotta, bollito di maiale, perché la carne comunque era messa a strati e comunque era varia. Quello che uno in casa aveva lo metteva stratificato, per cui c'era un po' questa sorpresa di avere questa varietà di carne. E veniva, diciamo, bollita con patate, carote, quello che comunque uno aveva nell'orto, condita con una salsa di rafano, che è il famoso crème. Certo. Quindi, niente, questo qui era proprio un piatto, diciamo, ricco e veniva sfoggiato feste. Beh, rimanga con noi perché ora continuiamo, andiamo in un'altra area importante, andiamo in Friuli, andiamo a Malborghetto da Alfredo Domenic, della titolare dell'antica trattoria da Giusi. Buongiorno Dominic. Buongiorno a voi. Anche voi siete una minoranza linguistica? Eh Noi siamo sì una minoranza linguistica che purtroppo si sta estinguendo, però cerchiamo di tenere duro. Ma la cucina no, la cucina tiene duro, immagino. La cucina tiene duro. Ecco, che lei ci dia così un particolare piatto che è nella vostra consuetudine. Guardi, noi come consuetudine abbiamo quello che adesso sta diventando di moda, il chilometro zero. Quindi noi cerchiamo di portare avanti quello che una volta veniva per tradizione mangiato nelle varie stagioni. E adesso, trovandoci d'inverno, il piatto forte è naturalmente il maiale, che veniva messo, veniva macellato a fine novembre. Ecco. Per cui il piatto forte attualmente è lo stinco di maiale affumicato come secondo. Bene, rimanga con noi perché ora facciamo un altro salto, addirittura andiamo in Basilicata, perché la Basilicata ha delle Dolomiti lucane, quindi anche lì c'è una cucina di montagna, e andiamo in un particolare ristorante che è il Becco della Civetta, Castelmezzano, in provincia di Potenza, da Maria Antonietta Santoro. Buongiorno Maria Antonietta. Buongiorno a lei. Ci dà un piatto che sta facendo in questi giorni, un piatto particolare della vostra tradizione montanara? Benissimo, anche per noi è tempo di maiale e quindi facciamo le tomacelle, le cotiche, il pezzente, la ventre, che è un salume cotto, in quanto non è altro che uno stomaco di maiale ripieno di uova e salsiccia, poi bollito e sospeso all'aria. Abbiamo ancora l'annulla, le costine, ma una cosa molto particolare che sto facendo in questo momento è il pollo ruspante ripieno. È un pollo ruspante che si fa al sugo e poi viene condita la pasta, ma con il sugo che rimane vado a condire delle verdure con sugo, formaggio e bollito di cotiche di maiale in questo momento, e bollito di ossa. Bene, torniamo, rimanga con noi anche lei, torniamo a Ragozzi, torniamo in Valsesia. Ragozzi, voi avete anche un sito che è la Cucina delle Alpi, cosa si propone questo sito e i vostri convegni, cosa si propongono? Allora, noi abbiamo, diciamo, dietro, come si può dire, patrocinio dell'ITM, che è l'incontro tra montane, che organizza, diciamo, ogni anno un particolare convegno nelle aree, diciamo, montane, e ci ha coinvolto per questo, per il convegno del 2011. E noi abbiamo pensato alla cucina, perché comunque è una cosa che portiamo avanti già da tempo, però noi vorremmo fare una cosa un po' particolare e dividere questo convegno in tre cose, diciamo in tre parti fondamentali. La cucina di montagna, che conosciamo tuttora, nel senso che noi siamo abituati a mangiare polenta, patate, però ricordiamoci che la polenta, cioè il mais e le patate, sono state importate intorno al 1500-1600, diciamo. Per cui prima cos'è che mangiavamo? Che cosa mangiavano anzi i nostri antenati? E ci siamo posti il problema, per cui vorremmo dedicare anche a prima, diciamo così, dell'avvento dell'era americana, che ha importato queste cose un po' particolari, e poi la terza parte, cos'è che potremmo, diciamo così, portare avanti nel futuro. Quindi, secondo me, e sono convinto di quello, è un convegno che andrebbe visto. Bene. Bene, però diciamo che fine 500, perché la scoperta dell'America con Colombo è 1492, quindi sicuramente sono arrivati allora questi frutti. Ma andiamo ancora da Malborghetto, da Domenig. Domenig, oltre, diciamo, questi piatti tradizionali, la vostra comunità porta avanti anche così un discorso per salvare la lingua, questa minoranza linguistica? Certo, negli ultimi anni sono state rievocate di nuovo tutte le nostre tradizioni, quali il Krampus con il San Nicolò, la Pertrabava, che è stata rievocata con la Befana, e queste fanno tutte parte della nostra cultura austro-ungarica. Ho capito, quindi state lavorando anche voi in questa direzione. Senta, io lo torno, grazie a Dominic. Torniamo a Maria Antonietta Santoro. Senta, prima ci ha dato un piatto del pollo ripieno e volevo chiedere, ci sono anche dei dolci particolari che voi fate? Sì, abbiamo un dolce iniziale, lo era un tempo, adesso lo si fa spessissimo, che sono le crostole. Ed è bella la storia che gira intorno a questo dolce, perché diciamo che è il dolce della solidarietà. In effetti, quando arriva l'invito per il matrimonio, ogni invitato si reca presso la famiglia della sposa o dello sposo, portando in dono un tempolo occorrente del matrimonio. Qui ritorna il pollo ruspante ancora, che si regalava in quanto poi doveva servire per imbandire, diciamo, la tavola nuziale. Oggi portiamo il liquore, il miele, il caffè. E poi in 10-15 giorni prima del matrimonio 20-30 donne si mettono insieme in una notte e imbastano qualche cosa come 400-500 uova. Ah, addirittura? Sì, addirittura, sì. Tirano delle foglie sottilissime, con una rotella sberla fanno dei nastri e le avvolgono a mo' di rosa. E questi dolci vengono fritti e poi con un rametto di origano intinto nel miele si sparge appunto di miele questo dolce, e che poi l'indomani viene distribuito a tutta la comunità. Bene. Dalle ragazze preferibilmente nubili. Bene. Che è un auspicio per la fertilità e quant'altro. Grazie a Ragozzi, grazie a Santoro e grazie a Dominic. Continuiamo su e giù per la montagna, su e giù per l'Italia. Andare a scoprire questa cucina appunto legata alla montagna, che in molti casi ha conservato tradizione, ha conservato prodotti. Ebbene, una cucina basata sul bosco, sulla malga, sulla cascina, sull'orto, sul campo. Quindi una cucina molto ma molto particolare. Bene, ora faremo un viaggio molto lungo, però andremo dalla Valle d'Aosta, poi andremo nelle montagne venete e quindi ci trasferiremo in Abruzzo. Quindi cominciamo questo viaggio dall'alto, dalla Valle d'Aosta. Buongiorno a Maurizio Grange. Buongiorno a tutti, buon anno. La Clusazza di Gignot, buongiorno. Maurizio, una cosa particolare nella sua terra, nella terra della Valle d'Aosta, questa cucina molto particolare, basata su prodotti straordinari, perché vorrei ricordare che la Valle d'Aosta è molto piccola, però ha 4, 5, 6 prodotti davvero, davvero eccellenti. Molti hanno anche la DOP comunitaria, quindi sono prodotti di grandissima qualità. Ecco, è una cucina di prodotto o è una cucina molto basata su così le esigenze della montagna, quindi le particolarità e sicuramente anche le difficoltà della montagna? Beh, qui siamo nella valle del Gran San Bernardo e quindi qui in cima a questa valle, nella località di Boss, nasce il prosciutto di Boss, che è proprio il simbolo di questa valle e la stagionatura. Quest'aria che parte dalla comba è sempre in movimento, fa sì che questo prosciutto in pochissimo tempo rimane secco, saporito e gustoso, tale che ha potuto conferirgli queste particolarità, tale da poter essere apprezzato dall'antichità fino ai nostri giorni. Si continua adesso, per fortuna, a riprendere questa tradizione che è partita con uno sviluppo locale, quindi dei piccoli produttori che ognuno si allevava il proprio maiale e poi se lo faceva stagionare i suoi due prosciutti, a fare questa piccola festa, questa piccola manifestazione. E adesso, grazie all'intervento di qualche bravo, c'è Fegatelli ad esempio che ha cominciato a mettersi in marcia con questa cooperativa, hanno ingrandito e fatto sì che questo prodotto si possa trovare sulle nostre tavole, altrimenti sarebbe rimasto. Maurizio, mi sembra che i prosciutti siano veramente ancora pochi e questa festa sia in luglio, se non erro. Questa festa rimane in luglio e in luglio si possono provare i vari prosciutti di questi piccoli produttori, mentre la parte, diciamo così, quella che si può trovare poi sulle nostre tavole è conferita da questa, si trova da questa cooperativa, cooperativa del prosciutto di Vosto. Ecco, rimanga con noi Maurizio, perché ora facciamo un salto, diciamo andiamo in Veneto, andiamo a Sappada, provincia di Belluno. Buongiorno a Roberto Provedani del ristorante Light. Buongiorno Provedani. Buongiorno. Bene, una cucina diciamo che ormai è molto conosciuta di questo ristorante, è sicuramente una cucina molto molto intrigante. Roberto, ci dà qualche piatto così che indica un po' questa vostra tradizione legata anche al territorio? Beh, ci sono dei piatti, beh, nel menù non manca mai un piatto proprio della tradizione, che sono dei ravioli che facciamo col camoscio. Nel dialetto sappadino, che è un dialetto tedesco, si chiamano Gepichtakropfen. È un piatto che Fabrizio prepara da quando abbiamo aperto, ed è un piatto della tradizione sappadina, lo potete trovare un po' dappertutto, ecco. Poi ci sono dei piatti più creativi, dei piatti di selvaggina, che insomma è un po' di casa da queste parti, sia per quanto riguarda i primi sia per quanto riguarda i secondi. Senta Roberto, c'è sempre la difficoltà da parte così di chi vive in montagna o in zone di montagna di reperimento dei prodotti. È così anche da voi o il territorio offre così tanto da poter così ogni giorno comporre i vostri piatti? Beh, sicuramente questo è uno dei grandi problemi. Fabrizia, chiaramente in estate, in primavera, in autunno con la cacciagione riusciamo a trovare anche nella zona delle cose importanti di grande carattere. Chiaramente d'inverno qua finisce un po' tutto, insomma qua c'è la neve, quindi si fanno delle scorte in estate di alcune cose e d'inverno bisogna muoversi un po' in maniera diversa, chiaramente. È così qui, ecco. Bisogna andare fuori territorio, insomma. È una necessità, dico, bisogna approvvigionarsi fuori dei prodotti del territorio perché è una necessità, immagino. No, beh, siamo sempre, sì, non proprio nel territorio di Sappada, magari qui vicino, insomma, qui vicino c'è la Carnia, c'è il Cadore, dove si riescono comunque a trovare delle carni, parlo per quanto riguarda le carni, sì. Sono delle cose che ci permettono di continuare a fare i piatti. Chiaramente c'è tutto uno studio, ecco, perché il ristorante i piatti deve averli di continuo, quindi bisogna essere certi di queste forniture. Della continuità. Bene, andiamo in Abruzzo, andiamo a Rivisondoli, andiamo da Nico Romito. Nico Romito, che così diciamo sui prodotti del territorio è uno di quelli che più di ogni altro ha lavorato, anche perché l'Abruzzo sicuramente offre molto. Ma volevo chiedergli innanzitutto, Nico, c'è neve? Buongiorno, no, non c'è neve, cioè per fortuna nostra non c'è neve, quest'anno come l'anno scorso il periodo di Natale non aveva fatto il 20-22 dicembre, però poi si è sciolta, ma è prevista dal 10 al 15, è prevista la forte nevicata, speriamo anche per la stagione invernale che così parte meglio e siamo tutti più felici. Ecco, tu partendo dalla tradizione hai sviluppato molto anche con la creatività il tuo menù e i tuoi piatti. C'è un piatto in particolare che secondo te rappresenta la montagna abruzzese? Sì, un piatto che in questo periodo secondo me proprio rappresenta il nostro luogo e soprattutto la nostra cultura gastronomica. È una pizza di grandigna con cicoria e lardo guanciale affumicato. La pizza di grandigna è una pizza di mais, fatta con farina di mais. Questa farina di mais non è una polenta, quindi non si fa come una polenta, ma si prende la farina di mais, si versa dell'acqua calda sopra, leggermente salata, e si modellano queste pizze. Si fanno proprio delle pizze, quindi questi cerchi, diametro sui 10-15 centimetri, e poi si infornavano. Prima si faceva sui forni a legna, si infornavano, si cuoceva, si asciugava l'acqua, si cuoceva la farina di mais, quindi veniva questa pizza alta 2 centimetri, leggermente affumicata, croccante sopra, morbida all'interno, e poi su si metteva del lardo, del guanciale per ridare umidità, e queste verdure, di solito era sempre il cicorione, la cicoria che di campo, si metteva sopra, si tagliava a spicchi e si metteva al centro della tavola prima di iniziare il pranzo, quindi un cibo molto carico, molto calorico, ma proprio perché era un cibo di montagna che doveva dare calorie, certo, per tutta la giornata. Sì. Maurizio Grange, un piatto del suo menù, della vostra tradizione, che dà calorie, che quindi permette così di sopportare le giornate molto fredde? Beh, in questo momento siamo, ovviamente c'è sempre la fonduta che ormai tutti conoscono, si può presentare in tante maniere, anche con i crostini, si può fare anche con la polenta. In questo momento noi abbiamo proposto anche come primo delle patate saltate con la cipolla e con i porri, con delle fette di fontina e infornate in forno leggermente gratinate, quasi come fosse la soppa alla papillonense, altro luogo di prediletto dove nasce appunto la fontina delle zone di Olomon, proprio la partenza di questa fontina che è prodotta in tutta la Valle d'Aosta, ma in queste zone alcuni luoghi sono proprio dei crù dove nasce questo prodotto, e questa di quest'anno può essere questa zuppa di patate appunto con i porri fatta gratinare. Bene, Brovedani, c'è un qualcosa di simile alla fonduta o è la stessa polenta che appare sempre sulle vostre tavole? Beh, qui nella Carnia, cioè qui è Cadore, comunque qui nella vicina Carnia c'è il Tocci in Braide, un piatto dove c'era la polenta e il formaggio sempre. E per quanto riguarda un discorso tipo fonduta, so che Fabrizia molte volte fa alcuni piatti con dei formaggi di qua, con delle ricotte, e farciture di alcuni tortelli. Ecco, qui una cosa molto interessante è la ricotta acida, che è una cosa qua che si trova a Sapada anche in qualche negozio. Aromatizzata con l'issopo, una cosa molto interessante. Issopo, cos'è l'issopo? Al centro del tavolo storicamente col burro fuso sopra, il piatto grande e tutti col cucchiaio, insomma tutta la famiglia, insomma tutti quelli che c'erano assaggiavano questa cosa. Brovedani ha parlato di issopo, cos'è l'issopo? L'issopo è un'erba. Ah, ecco. Sì. È un'erba particolare. È un parente dell'estragone, sì, ecco. Come gusto una via di mezzo tra l'aneto, la menta, insomma un gusto molto balsamico. Bene, grazie. Torno a Nico Romito. Nico, ma secondo te la cucina di montagna è caratterizzata molto dalle erbe? Beh, sicuramente sì, una cucina erbe di campo, erbe spontanee, e sicuramente siamo... Soprattutto perché comunque la cucina di montagna tendenzialmente è una cucina povera, e quindi io vedo la mia cucina, la cucina di montagna, tradizione dell'entroterra abruzzese, una cucina veramente fatta, nasceva proprio dalla pastorizia, quindi dai lavori di campo, quindi sicuramente c'è stata una ricerca sulle erbe di campo, le erbe spontanee che comunque costavano poco, e quindi è una cucina veramente del... semplice, ma comunque una cucina di un'originalità che dà una forte caratteristica nell'utilizzo di queste erbe, che comunque variano in base alla stagione. Ad esempio c'è il periodo che si trovano solo qui, quindi proprio l'originalità di questa cucina, gli orapi, questi spiraci selvatici che nascono dopo lo scioglimento delle nevi, e dove hanno pascolato le pecore prima delle nevicate, quindi nascono questi piatti poveri, che questi pastori, che quindi nascono dall'idea, dalla cucina di questi pastori, e poi noi l'abbiamo fatti nostri e l'abbiamo resi più moderni, però sicuramente è una cucina di erbe spontanee. Quindi è una cucina di memoria, una cucina di sapienza, quella della cucina di montagna. Grazie a Nico, a Maurizio e a Roberto. Abbiamo sentito dai nostri ospiti che è una cucina di memoria, una cucina di tradizione, una cucina di conservazione e soprattutto una cucina di prodotto, con grandi interesse per le erbe, soprattutto per le erbe di campo, di montagna, di bosco. Bene, ora parliamo di questo argomento, della cucina di montagna, con Maria Tomasoni Iannotta. Buongiorno, signora. Buongiorno a lei. Che ha scritto un libro, un bellissimo libro, che è La mia cucina di montagna. Quel mia è importante, perché anche lo ha distinto con un indice tematico molto interessante: il bosco, la malga, il fiume, la cascina, il campo, l'orto. Ecco, cos'è che incide di più di questi, diciamo, di questi luoghi sulla sua cucina, dal punto di vista del prodotto? Beh, indubbiamente la distinzione poteva essere fatta in base alle stagioni, che chiaramente in montagna incidono tantissimo. Però è anche vero che in montagna i luoghi incidono non meno delle stagioni. E ad esempio la Malga è proprio la zona dove si fanno i formaggi, dove Allora, vengono portati appunto negli alpeggi i vari animali, a secondo del periodo, dell'erba che mangiano, cambia il tipo di formaggio, di prodotto, di gusto e di sapore. E così come ad esempio il bosco nel periodo autunnale fornisce una serie di prodotti che vanno dai frutti di bosco ai funghi, alla selvaggina, che chiaramente poi influisce direttamente sulla cucina che si va a preparare. Ecco, lei ha portato molte ricette. Queste ricette sono una sua elaborazione o anche un qualcosa che deriva dalla tradizione e dalla memoria? Sì, fondamentalmente derivano dalla tradizione locale. Poi chiaramente col passare del tempo sono state cambiate, sono state aggiornate. Per fare un esempio molto semplice, nei periodi invernali l'alimentazione era molto ricca di grassi, ma anche perché le case, le cascine erano poco riscaldate, allora c'era bisogno di dare alimenti molto calorici per il corpo. Oggi che chiaramente il riscaldamento c'è su tutte le cascine, in tutte le baite, chiaramente l'alimentazione è stata alleggerita di questi grassi che non sono più così necessari. Ecco, diciamo che siamo nella Bergamasca, cioè stiamo parlando di un'area appunto in provincia di Bergamo, quindi la montagna bergamasca. Esatto, le Alpi Orobiche, della zona della Pesolana e di tutte le Alpi Orobiche. Ecco, lei ha messo anche il fiume su questa distinzione di questo suo libro. E credo che sia importante perché anche in molte altre aree di montagna italiane ci sono appunto dei fiumi che danno del pesce particolare. E certamente, noi siamo in Val Seriana, cioè appunto il Serio, la valle accanto alla nostra, la Val Brembana, il Brembo, fiumi molto importanti che se negli anni 50 e 60 davano acque per le industrie della base, ma per noi di montagna invece ci davano quegli alimenti che allora erano i gamberi, oggi difficilissimi da trovare, ma che erano poi le trote, tutti quei pesci di fiume, di acqua dolce, perché poi ci sono anche i laghetti alpini che forniscono pesce, e chiaramente è un pesce, se vogliamo così, di lago, così di acqua dolce, non magari nobile come quello di mare, ma pur sempre gustoso e che variava un po' l'alimentazione in alcuni periodi dell'anno. Ecco, ma si trova ancora questo pesce? Oppure è scomparso, oppure si trova rarissimamente? Diciamo che ormai i consumi sono anche talmente tanti che diventa difficile trovarlo. Comunque ci sono ancora lungo il Serio diversi pescatori, li si possono vedere soprattutto il sabato e la domenica, che vanno a pescare queste trotelle di fiume. Ecco, rimanga con noi, andiamo ora a Livigno in Valtellina, andiamo da Mattias Peri. Buongiorno Mattias. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, ma la cucina valtellinese, tu sei a Livigno, quindi sei in alto, molto in alto, ha delle proprie tradizioni, dei propri piatti che ha mantenuto ancora o il turismo le ha viste scomparire? Diciamo che qualche piatto ci sono ancora per le cucine che le hanno rivisitate, le mantengono in carta, che qualcuno che le ripropone così. Diciamo che lavorare sopra i 1800 metri dove siamo noi, avere la possibilità di avere dei prodotti nostri tipici è veramente raro. Noi ci stiamo provando con delle essenze di bosco, profumi di bosco, raccogliamo specialmente in estate ortiche, non so, aghi di pino, mugo, tutto. E allora riusciamo a fare dei piatti un po' nostri, in chiave rivisitati, in chiave un po' moderna. Ecco, tu hai parlato di difficoltà di approvvigionamento, questo sicuramente è un grossissimo problema, ma si riesce comunque a ottenere, cioè all'interno della Valtellina, non dico 1800 metri, ma all'interno della Valtellina ci sono prodotti tali da poter garantire così un menù? Per un ristorante di nicchia come il nostro, che non fa grandi numeri, probabilmente è più facile perché non abbiamo bisogno di grandi quantità, abbiamo bisogno di piccole cose, ti devi affidare a dei piccoli produttori che con gli anni diventino di fiducia e poi praticamente qualcosa si trova, sì, ben tanto anche. Senti, mi racconti qualche prodotto appunto che è valtellinese che sei riuscito così, che riesci a ottenere giorno per giorno con tranquillità e il prodotto di qualità? La nostra forza come Valtellina senz'altro sono i formaggi e lì ne troviamo da qualsiasi qualità, qualsiasi gusto, qualsiasi tipo. Però riusciamo a trovare bene anche, non so, funghi, piuttosto che, dicevo prima, ortiche, aghi di pino. Prevale più che altro nel periodo estivo. tanti prodotti noi li andiamo a cercare, li procuriamo così e poi li abbattiamo e li usiamo anche un po' in inverno, non tutti perché la freschezza è la stagionalità. Ecco. Però ce ne sono, e oltretutto anche nella nostra vicina Engadina ci sono dei produttori, non so, allevatori di pecore, allevatori di capri, ti danno dei prodotti alternativi che li puoi affiancare, e noi abbiamo dei menù che si chiamano i nostri confini, proprio perché sono confinati un po' tutto. Ecco, a un cliente che arriva nel tuo locale che ti chiede voglio mangiare un piatto della tradizione, anche se rivisitato, anche se rivisto così, dalla fantasia tua, cosa gli consigli? Il piatto forte che abbiamo noi che lega la tradizione è un raviolo fatto con farina di segale, ripieno di polenta condita con formaggio, la polenta cuncia, e abbinato ai funghi porcini e un grana di grosso. Questo qui è il piatto forte del momento e ormai da un paio d'anni. Poi ne abbiamo degli alternativi, non so, la cebuleia che di pino è un altro piatto forte, che è diventato un po' un piatto di un cavallo di battaglia. Bene, rimani con noi. Ora andiamo ad Albo Saggia, provincia di Sondrio. Andiamo da Giuliano Murada, agriturismo Stella Oropica. Buongiorno Murada. Buongiorno. Lei è a pochi chilometri da Livigno, anche se più in basso, ma le voglio chiedere, anche lei, diciamo, la ricerca del prodotto è facile oppure diventa sempre più difficile? Sempre più difficile, perché pur essendo in Valtellina, zona di montagna, anche se con enormi differenze rispetto a Livigno, perché il nostro centro aziendale è nel fondovalle, quindi a 400 metri. Per fare un prodotto buono, noi abbiamo un agriturismo, quindi abbiamo puntato dalla materia prima, cioè da allevare e produrre il prodotto che poi utilizziamo anche nella cucina e proponiamo ai nostri ospiti. Quindi la ricerca è a fare questi prodotti tutti i giorni, tentando sempre di elevare la qualità e dare un gusto unico. Ci racconta qualche piatto? Ma dalla tradizione prettamente valtellinese, ovviamente, che ne so, mi viene in mente subito i pizzoccheri piuttosto che gli sciat, che sono oramai conosciutissimi. Poi ci sono tanti altri piatti della nostra tradizione, sempre fatti con prodotti strettamente locali, ma nel nostro caso proprio prodotti da noi, anche i tarozzi, dove usiamo delle nostre patate e i nostri fagiolini del nostro orto, piuttosto che un qualcosa di un po' più elaborato, sono le tagliatelle al mirtillo raccolte a 2000 metri, dove andiamo in alpeggio d'estate con i nostri animali, aggiunto con la nostra panna, e funghi porcini raccolti sempre nel bosco, diciamo attaccato a casa. Senta, parlando di tarozzi, cosa sono i tarozzi? Il tarozzo è un piatto, come si chiama, come si dice, povero, della tradizione storica locale, che serviva alle famiglie come sostentamento. È fatto di patate, fagioli, fagiolini e burro con formaggio. Anche il formaggio in questo caso usiamo del nostro, dato che lo produciamo. Viene utilizzato del Valtellina casera, viene fatto fondere ed è praticamente un piatto unico. Con un po' di salume hai già una pietanza pronta. Ecco Mattias, voglio tornare a te per la Valtellina per i vini. Volevo chiedere, in questi anni diciamo che la produzione valtellinese di vini si è molto elevata dal punto di vista qualitativo. Ecco, i turisti, perché tu credo che il tuo cliente abituale sia il turista, ha cominciato a conoscere questi vini o c'è bisogno di farglieli conoscere? Diciamo che rispetto agli anni scorsi la crescita del vino valtellinese è notevole, specialmente da noi. Ma anche sui piccoli produttori, quelli che cerchiamo di consigliare, la gente si affida, si lascia guidare e sono in forte crescita, parecchio. Quindi cioè, diciamo che appunto anche il consumatore comincia ad apprezzare e a conoscere i vostri vini, che sono sì. I vini di una difficoltà enorme, diciamo sono i vini di montagna, quindi i vini di montagna non è che il lavoro sia molto facile. Ecco, viene apprezzato diciamo questo tipo di viticoltura oppure si beve e si dice buono e cattivo? No, viene apprezzato anche perché la gente sempre più si sta informando, si documenta che vini sono, come vengono fatti. E il nostro ruolo è un po' anche quello di comunicare, di far conoscere, di far sapere, però ci siamo resi conto che negli ultimi 3-4 anni c'è una netta, netta crescita proprio del prodotto locale nostro, valtellinese. Murada, volevo chiederle, l'agriturismo è molto diffuso in Valtellina? Sì, negli ultimi anni si può dire che è aumentato di parecchio l'offerta agrituristica, sia da un punto di vista di ristorazione, sia da un punto di vista anche un po' ricettivo, quindi dando alloggio e così. Dobbiamo ancora fare diversi passi avanti per portare quello che la ristorazione buona ha da insegnarci, perché l'agriturista tante volte nasce come attività connessa a quella agricola, quindi magari non si è così preparati come chi lo fa di professione, quindi un ristoratore, a presentare e a servire i piatti. Però se uno ci mette della buona volontà utilizzando delle materie prime sue buone, riesce a ottenere un risultato apprezzatissimo dalla clientela. Difatti noi siamo molto contenti per... Ecco, lei ha detto materie sue prime, quindi questo è importante, perché diciamo che non sempre succede così, però è importante così che si salvino appunto questi agriturismi che producono delle proprie materie prime. Grazie a Giuliano Murada e a Mattia Speri. Invece prego a Maria Tomasoni Iannotta, autrice di questo libro La mia cucina di montagna, perché non gli avevo chiesto alcune ricette particolari. Allora gliene chiedo una in particolare, una ricetta del bosco. Cosa si può proporre in questo periodo di una ricetta del bosco? Beh, la più facile che si può fare in questo periodo, anche se ormai i funghi iniziano un po' a scarseggiare, è la frittata con i funghi del bosco. Così come si possono fare anche delle tartare di patate e funghi. Se invece andiamo sui primi, l'autunno che ci ha appena lasciato ci permette di fare dei gnocchetti di castagne con le due diversi tipi di ricotta e le noci, così come si possono fare le tagliatelle di castagno con porri e salsiccia, oppure un timballo di riso con finterli e fonduta di taleggio. E chiaramente, ecco, nel periodo invernale diventa più facile invece la selezione nei secondi, come può essere i bocconcini di capriolo con la polenta, oppure anche nodini di capriolo in salsa al vino rosso. La selvaggina offre ancora tanti spunti. Ecco, i dolci sono molto caratterizzanti della cucina di montagna, anche perché abbiamo detto prima, per calorie, per incamerare calorie ovviamente di fronte al freddo e di fronte a questi periodi. Ecco, i dolci sono tradizionali suoi nel libro, oppure sono anche questi dolci della memoria o dolci così del suo patrimonio culturale sui prodotti? Un po' le cose, nel senso che alcuni dolci sono i dolci che faceva mia madre, e pertanto li ho riportati con molto piacere. Sono poi quelle torte margherite, quelle torte di mele classiche che si mangiano un po' in tutte le case, ma che poi ogni casa ha il suo modo di farlo. Poi la crostata è chiaramente le uova, farina e burro, sono proprio gli elementi tipici della montagna, e pertanto la crostata. Ma poi nel tempo sono state aggiunte anche delle altre torte, come il tortino di cioccolato, che chiaramente il cioccolato non appartiene alla montagna, ma però nei momenti di festa ecco che arrivavano quegli alimenti, quei prodotti che non erano del luogo, ma che servivano proprio per creare il senso di festa, così come l'utilizzo della cannella all'interno dei dolci, o i classici strudel di mele fatti poi nelle diverse versioni. Ecco, panna e cioccolata si vedono molto in montagna, perché sicuramente sono molto molto vere bombe caloriche, come si dice. Ma verissimo. Ora rimanga ancora con noi, perché ora andiamo a San Martino di Castrozza in provincia di Trento, e quindi andiamo alla Malga Ces. Siamo in piena montagna e credo siamo in una malga, appunto di questa località. E con noi Ezio Deritz, o Deritz, non so, perché qui la pronuncia è sempre particolare. Ezio, si dice Deritz o Deritz? Deritz, benissimo, sì. Benissimo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Siamo, ecco, la cucina di Malga ha mantenuto le proprie tradizioni, Ezio? Sì. Sicuramente noi adesso stiamo proponendo una cucina un po' rivisitata, però ancora con le ricette antiche di una volta, riscoprendo soprattutto i prodotti locali e la stagionalità del prodotto. Ecco, malga significa molto anche formaggio, significa molto carne. Soprattutto formaggio, sì, perché noi lavoriamo tanto con i prodotti del latte e comunque non solo quelli, diciamo. Ecco, cosa dalla malga, di produzione, diciamo, di malga, e quali piatti cucina lei da queste produzioni? Beh, noi abbiamo la tosella, che è un formaggio tipico nostro, che è un formaggio di giornata fatto con latte intero, che di solito lo abbiniamo con la polenta, i funghi e la luganica, la salsiccia trentina. Oppure abbiamo il taglierone dei salumi della Malga nostro, con i formaggi sempre fatti qua in Malga. Ecco, io so che esiste un piatto Cess. Sì, il piatto Cess in pratica è il piatto che evidenzia la nostra cucina, dove proponiamo la polenta, quella di Storo, con la tosella, questo formaggio che dicevo prima, della luganega e dei finferli di bosco, in pratica. Ecco, la cucina di Malga è, diciamo, ha molti prodotti che sono prodotti di conservazione, cioè di altre stagioni, che poi vengono cucinati in altri periodi, perché appunto c'è sempre stata questa tradizione. Esatto, sì, diciamo che noi durante l'estate facciamo l'approvvigionamento con il prodotto fresco e poi l'inverno lo proponiamo con una conservazione che va bene per la stagione dopo. Ecco, quanti metri è alta dove siete voi in Malga? Noi siamo a 1700 metri d'altitudine. C'è neve oggi? Oggi è una giornata tipicamente invernale, nevica, fa un po' freddo, però diciamo che è lo giusto per le vacanze natalizie. Quindi bisogna mangiare cose caloriche oggi? Soprattutto che scaldano. Senta, Ezio, ma le malghe, c'è stata così una diaspora dalle malghe, sono state abbandonate, parecchie abbandonate in Trentino come in altre parti? Soprattutto, sì, adesso in questo periodo c'è ancora la riscoperta, soprattutto del turista attento che va alla ricerca di questi posti. Una volta sì, sono state un po' abbandonate magari per la città, però diciamo che il riscontro del turista vuol dire che chi è rimasto viene premiato. Ecco, prima parlevamo di sì. Dolci, e dolci anche voi avete offrite parecchi dolci, ce ne vuole parlare magari di uno di questi, di una di queste così ricette? Sì, diciamo che noi in linea di massima abbiamo una varietà di dolci che facciamo noi qua in casa, che si può andare dalla mela di strudel, alla torta di nocciola, alla sacher, la crostata ai frutti di bosco, il dolce di ricotta. E poi abbiamo dei dessert, diciamo, al cucchiaio, che non so, il bel tortino, la fonduta di cioccolato, che è un piatto nostro caratteristico, che lo serviamo con i spiedini di frutta, che è molto apprezzato dalla nostra clientela. Ma il brulè si fa ancora? Si fa e si beve ancora. Sì. Con quale vino? Con quale vino? È sempre vino rosso, diciamo che il Terolico sarebbe l'ideale. Ecco, quindi l'ideale per fare il vin brulé è questo. Bene, rimanga ancora un po' con noi. Torniamo alla Maria Tommasoni Iannotta, perché voglio chiedere anche qualcosa, non solo dei dolci, ma ritornare un po' all'orto, perché è tradizione sicuramente della cucina di montagna avere un orto, appunto per non dover fare chilometri, oppure molte volte essere ostruiti nel partire e andare a fare approvvigionamenti. Allora le voglio chiedere se lei ha un orto. Sì, certamente. Ho un orto che col tempo adesso è diventato un orto soprattutto di spezie, di erbe aromatiche, che sono quelle che poi danno sapore e gusto alla cucina. E quindi lei, cioè, non ha bisogno di andare, diciamo, ad acquistare gli odori, quelli che vengono chiamati gli odori? Esatto, diciamo che per buona parte dell'anno non ho questo problema, poi chiaramente, come adesso in inverno, chiaramente il problema si ripone. Bene, grazie, la ringrazio. Torniamo a Ezio, perché Ezio voglio parlargli di vini, voglio chiedergli se i turisti di questo periodo chiedono vini trentini oppure chiedono vini, diciamo, di altre regioni, oppure sono acculturati sui vini trentini. Diciamo che noi nel nostro ristorante abbiamo una carta di vini esclusivamente trentina e il turista sceglie logicamente un vino trentino perché la nostra teoria è che in ogni posto che si va bisogna saper apprezzare i prodotti di quel luogo. Quindi chiedono Teroldego, chiedono... Diciamo il Teroldego, il Gewürztraminer, il Lagrein, il Pinot Nero, che sono i vini diciamo che vanno per la maggiore. Ecco, volevo chiederle, quando arriva appunto un turista che non è trentino, lei le offre la carne fumata, le offre questi piatti che hanno anche, per così dire, delle tradizioni locali e anche dei nomi le locali. Sono conosciuto o gliele deve spiegare? Ma diciamo la prima volta bisogna un attimo spiegare, perché logicamente ogni posto ha i suoi prodotti, però poi il turista che ritorna l'anno successivo le richiede, le vuole, perché ne rimane soddisfatto. Ecco, cucina di montagna invernale, ma c'è anche la cucina di montagna estiva. Ci sono molte differenze dal punto di vista delle offerte diciamo dei piatti, oppure avendo approvvigionamento e quindi così cura della conservazione sono gli stessi? Ma diciamo che la cucina tra l'estate e l'inverno non è che cambi proprio più di tanto. Sicuramente in inverno possiamo proporre il radicchio di Treviso che d'estate non lo proponiamo, come le castagne, mentre d'estate proponiamo più dei prodotti tipicamente estivi, o in primavera gli asparagi, sì. Bene, grazie Ezio De Riz, Malga Ces, San Martino di Castrozza. Ora andiamo a Teglio, in provincia di Sondrio, da Luca Cantoni, ristorante Fracia o Fracia. Fracia, si dice Fracia, vero Luca? Sì, Fracia. Fracia. Ecco, l'ho detto male, vai e viene. Cantoni, volevo chiederle, ci racconta due piatti, ci dice due piatti che ha in carta in questo momento. Pronto, non si sente? Pronto, Fracia? Pronto? La sento male, va e viene. Non ci sente, pazienza, sarà per un'altra volta Cantoni. Bene, ringrazio Luca Cantoni, non si sente la linea e quindi dobbiamo così avvicinarci alla conclusione di questa puntata sulla cucina di montagna, che come abbiamo visto è una cucina di memoria, di tradizione, di soprattutto di prodotti locali che secondo me salvano questa biodiversità italiana, quindi una cucina importante da salvaguardare, così come sono diciamo questi ristoranti che alcuni fanno parte appunto di queste minoranze linguistiche importanti di alcune aree d'Italia, che salvaguardano sia la lingua, che salvaguardano appunto le tradizioni, la storia, il folklore e sicuramente salvano un mondo che potrebbe anche scomparire. Bene, ci avviamo appunto alla conclusione, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, ma anche domani con il riposo del guerriero alle 11.15 e ogni giorno alle 11.05 alla 23.05 con le pillole del gastronauta. Buon weekend a tutti e buona cucina di montagna.